Allora, martedì prossimo sarà il 17 di Tammuz. Il 17 di Tammuz è un giorno di digiuno che si chiama, entra nella categoria di Ta'anit Zibur, giorno di digiuno del pubblico, che come la maggior parte dei Ta'anit Zitaniot Zibur, il digiuno va dalla alba al tramonto, dall'alba alla notte, al calare della notte. E potrete vedere gli orari esatti in base a anche la località in cui vi troverete, perché ovviamente cambia, potete vedere molto facilmente oggigiorno gli orari esatti. E durante questo giorno si digiuna. Come si definisce digiuno? Il digiuno è definito dal non mangiare e non bere. Così si definisce il digiuno. Ovviamente una donna incinta o partoriente, o che allatta, è molto più leggero il discorso di come lei si dovrebbe comportare, non come Tisha B'Av o Kippur, che lì comunque dovrebbe digiunare, tranne che il caso della partoriente entro i primi giorni. Però per Shiva Asar B'Tammuz si alleggerisce in questi casi, possibilità di alleggerimento anche per chi sta male, però nel caso specifico una persona può chiamare il proprio rabbino e chiedere come comportarsi. In generale, digiuno significa che non si mangia e non si beve dall'alba al tramonto. Se una persona va a dormire la sera prima e dice con la condizione che mi sveglio prima dell'alba e prendo un caffè o mangio qualcosa per prepararmi per il digiuno, va bene. Però è meglio farlo in questa maniera, cioè prendendo la condizione prima di andare a dormire, perché se no, se uno va a dormire senza fare la condizione, allora automaticamente inizierebbe il digiuno l'indomani mattina, anche se si sveglia presto. Quindi è bene prima condizionare la cosa. Di alleggerirla, che intendono quando è alleggerito? Alleggerire significa che forse in alcuni casi non deve fare digiuno. Per niente, cioè Sì, può rompere o forse. rompere il digiuno, sì. Questo però che riguarda il digiuno stesso riguarda anche gli altri digiuni. In realtà il 17 di Tammuz apre un periodo che si chiama Ben HaMetzarim. Cosa significa Ben HaMetzarim? Ben HaMetzarim letteralmente significa tra le ristrettezze. Tra le ristrettezze. Cosa vuol dire tra le ristrettezze? Allora, è una parola che è citata dalla Megillah di Eicha. Le lamentazioni che si recitano a Tisha B'Av, che è la Megillah che è stata scritta relativamente alla distruzione del Bet HaMikdash, del primo Bet HaMikdash, il profeta Yirmiyahu, Geremia, e noi lo leggiamo a Tisha B'Av. Lì c'è scritto: Kol rodfeha hisiguha ben hametzarim, che chiunque la rincorreva in male, no? Al popolo ebraico l'hanno presa Ben HaMetzarim tra le ristrettezze, cioè l'hanno messa in una situazione da cui non poteva scappare. Però da qui si trae questa parola Ben HaMetzarim tra le ristrettezze, che va ad indicare poi nella letteratura rabbinica un periodo che va da Shiva Asar B'Tammuz, cioè dal 17 di Tammuz, fino al 9 di Av, che sono due digiuni che aprono e chiudono questo periodo. Il 17 di Tammuz è un giorno in cui sono accadute varie cose negative, vari eventi terribili nella nostra storia, tra cui anche eventi legati al periodo prima della distruzione del Beit HaMikdash. E di conseguenza si usa osservare un lieve livello di lutto iniziando già dal 17 di Tammuz. Per esempio, alcuni usano fare una preghiera che si chiama Tikkun Chatzot, una preghiera di lamentela e di richiesta da Kadosh Baruch Hu relativo alla distruzione e la richiesta della ricostruzione, che usano fare nel Chatzot Hayom, cioè al mezzogiorno, in tutti i giorni delle 3 settimane tra Shiva, Sarbe, Tammuz e Tisha B'Av. E questo alcuni, appunto, alcuni usano. Inoltre si usa, l'alaha è che non ci si sposa durante questo periodo, ma è permesso fissare un fidanzamento, cioè decidere di sposarsi è permesso, quindi non vi preoccupate. Però sposarsi si fissa la data un po' più tardi. Come? Abbiamo un discorso simile fatto, forse per un altro digiuno. Può darsi, forse l'anno scorso abbiamo fatto. No. Ah, scherzo. Anche per ciò che riguarda chi si occupa di musica, che in questo periodo evitiamo di partecipare in eventi di musica dal vivo, anche per questo non si fanno matrimoni, eccetera, non un'eccessiva simcha, però chi la propria parnassà, il proprio sostentamento dipende dal fare musica, è un musicista, allora gli è permesso fare questo lavoro per il suo sostentamento, ma non per altri ebrei. Per non ebrei va bene, ma per altri ebrei no, perché non dovrebbero assistere a queste cose. Anche questo fino alla settimana in cui viene Tisha B'Av. Durante la settimana in cui capita Tisha B'Av, cioè dallo Shabbat prima, il lutto, il livello del lutto aumenta, come vedremo. Un'altra espressione di questo lieve lutto che si osserva in questo primo periodo tra le ristrettezze si esprime nel fatto che si evita di dire la berachah di Shecheyanu. Significa, in questo periodo noi abbiamo a volte nuovi frutti della nuova stagione che non abbiamo ancora assaggiato, che vengono fuori, diciamo, ah, adesso abbiamo l'opportunità di mangiare un nuovo frutto e di dire la berachah di Shecheyanu. Ieri ha cambiato abiti. Ah, bene. Oppure un abito importante nuovo, cioè la berachah di Shecheyanu, o una nuova casa, Shecheyanu. Allora, cosa significa Shecheyanu? La parola proprio Shecheyanu, il significato della benedizione. Ringraziamo Kadosh Baruch Hu che ci ha fatto arrivare a questo momento. Vigianu lasmanase, che ci ha fatto arrivare a questo momento. Non vogliamo dire di un momento di questo tipo ci ha fatto arrivare a questo momento. Di conseguenza evitiamo il frutto nuovo, mettiamolo in frigorifero, aspettiamo o Shabbat o dopo Tisha B'Av, perché nello Shabbat, durante il periodo, si dice sì su un frutto nuovo. Ok? Quindi questo è il motivo per cui non si direbbe Shecheyanu in questo periodo. Non è un divieto assoluto, però è bene non farlo. Sì, cioè si usa non farlo. Si usa non farlo, non metterti nella situazione di dover dire Shecheyanu, a meno che HaKadosh Baruch Hu ti ha messo nella situazione. Cosa significa? Una milà. Se farditi usano una milà dire Shecheyanu, allora è lui che ti ha messo nella situazione. È chiaro che non eviti di dire Shecheyanu per la milà, per non perdere quella opidiona ben. O lo scompro, no? Il ricatto del primogenito, sì, riscatto del primogenito, il riscatto del primogenito. Allora lì sì, però tu non metterti nella situazione di dover dire Shecheyanu in questo periodo, per appunto il motivo che abbiamo visto. Ma il frutto si mangia? No, perché non lo puoi mangiare senza dire Shecheyanu. Ah, è quello. Allora lo mangi Shabbat fai Shecheyanu. Come quando prendi il pesce, lo lasci per Shabbat, fai lo stesso per il frutto. Inoltre non si tagliano i capelli, ecco, in questo periodo. E abbiamo tempo fino a martedì. Quando arriviamo al periodo già della settimana stessa di Tisha B'Av, dico secondo l'uso sefardita, non si mangia la carne, non si beve il vino, non di Shabbat si può, ma dal Shabbat, cioè dall'uscita dello Shabbat, finché dopo Tisha B'Av, lo Shabbat che precede Tisha B'Av, fino a dopo Tisha B'Av, non si mangia carne, non si beve vino. Ashkenaziti da Rosh Chodesh. Ashkenaziti da Rosh Chodesh. Sefarditi dalla settimana. Anche se i libici, anche da Rosh Chodesh, a differenza di altri sefarditi. Quindi dal Rosh Chodesh, oppure dalla settimana stessa, si evita di mangiare carne e di bere vino nei giorni feriali che precedono Tisha B'Av. Ebreo d'Italia, tutto è Ashkenaz? È confusione. Confucio, non è chiaro. In Italia è Confucius. Non è chiaro. Avevi una domanda, Romano. Alberto? Roma, no, sabato precedente fino a Tisha B'Av, quindi da domenica non si mangia carne. Da sabato sera? Sì, da sabato sera non si mangia carne e vino. Sì. Talui, ma mi. L'ho pasciut. Sfaradi, io desu sfaradi. Sfaradi, so e si. Hu io desu sfaradi. Seder. Mi se lo yodea, ma io se. Se lo barur. Che yesh. Perché a Roma c'è un po' un miscuglio. Ebrei che sono venuti dalla Spagna, Spagna, che sono sefarditi, ebrei che sono presenti a Roma da prima 2000 anni, e che sono più simili come minhag al minhag ashkenazita, tedeschi, ebrei africani. Anche il contrario, anche da Roma sono saliti su i primi ashkenaziti. È un po' di confusione, allora, non è il momento adesso di entrare in questo. Nelle tre Shabbatot, delle tre settimane tra le ristrettezze, si recitano tre Haftarot, cioè i brani dei profeti che noi recitiamo in questi Shabbatot, si chiamano Sheloshah de Puranuta. Tre Haftarot che parlano della, proprio della distruzione e dei castighi, diciamo così. Che la prima è Divrei Yirmiyahu, Shimud Devar Hashem e Chazon Yeshayahu. E sono riferite appunto a questo periodo della distruzione. Quindi non come tutto l'anno che la parasha è legata, che l'Haftarah è legata alla parasha, in questo periodo l'Haftarah è legata al periodo dell'anno in cui viviamo. E dopo queste tre ci saranno dallo Shabbat, dopo Tisha B'Av, sette Haftarot Shiva de Nechemata. Più del doppio del castigo ci sono sette di consolazione che ci portano praticamente a Rosh Hashanah. Ok? Questo è dopo Tisha B'Av. In generale, quando noi parliamo del periodo di Av stesso, quindi da Rosh Chodesh e a maggior ragione dalla settimana stessa, si evitano questioni di grande gioia come creare una nuova casa, costruire e comprare una casa nuova, dove stavo? Compleanni, cose varie. Ok, no, compleanni. Compleanno è compleanno, non si fa chissà che cosa, però si può segnare il compleanno. Se abbiamo una lite, cioè un contenzioso con un non ebreo e dobbiamo andare davanti a un giudice, una cosa simile, è meglio cercare di farlo dopo questo periodo di Tisha B'Av, non durante questo periodo, se è possibile anche in tutto il mese dell'Av evitare, se è possibile. Comunque corrisponde ad agosto, allora in Italia è facile. E anche una cosa che può sembrare una mitzvah, però ci porta a simcha, come la santificazione della luna, Kiddush Levana, che si fa nella prima metà del mese, perché il 15 già poi inizia la luna a diminuire, non si fa più, si fa entro il 15. Noi cerchiamo sempre di farlo nella prima opportunità. Secondo anche l'usanza, c'è chi dice serve un minimo di 4 o di 7 giorni, ma poi si fa. In questo caso non si fa fino a dopo Tisha B'Av, quindi dopo il 9. Per ciò che riguarda di nuovo la carne e il vino nella settimana o da Rosh Chodesh secondo l'usanza di Av, il divieto di carne e di vino, allora anche lì chi non può mangiare latticini, o pesce o altre cose, deve per forza mangiare qualcosa a base di carne, allora gli si permette di mangiare di pollo, non di carne proprio, ma di pollo, se proprio c'è il problema. Oppure una persona che sta male, e deve nutrirsi bene, allora gli è permesso tutto questo. Gli è permesso tutta la carne. Il macellaio può vendere, non è che diventa taref. Poi ognuno decide se ha bisogno di mangiare carne. Come l'Alha dice, se uno sta male, è permesso tutto. Sì. Non è come un digiuno, ok? Oppure una partoriente, di nuovo, una che allatta, eccetera. Se ha bisogno, allora mangia la carne. Magari però evita solo c'è scritto dal 7 di Av, il giorno prima, che è il giorno in cui i soldati sono entrati nel Bet HaMikdash, sono entrati il 7 di Av. La distruzione stessa è stata il 9, e in realtà ha continuato a bruciare tutto anche il 10. Per questo alcuni evitano di mangiare carne e vino anche il 10 di Av, il giorno dopo Tisha B'Av. Però anche durante questo periodo che non si mangia la carne, se c'è una udat mitzvah, e cioè un pasto relativo ad una mitzvah, come si definisce un pasto relativo ad una mitzvah? Un pasto per una milà, un pasto per, come abbiamo detto prima, pidyon haben, il riscatto del primogenito, o anche siyum masachta, anche la conclusione di un trattato del Talmud, richiede un pasto di mitzvah, cioè rientra nella categoria di un pasto di mitzvah. In questi casi è permesso mangiare carne nel pasto della mitzvah, anche durante i 9 giorni o la settimana di, ok? Ma scusa, perché non si può mangiare la carne? Perché rappresenta qualcosa, o perché è questione di benessere, o di gioia? Perché di rappresenta piacere, simcha, piacere. Carne e vino rappresenta piacere. Quando una persona è di lutto grave, evita cose di grande piacere, di simcha. Capito? Inoltre, in questo periodo della settimana di, o dei 9 giorni, di nuovo in base all'usanza, si evita di fare il bucato. Non si puliscono gli indumenti. A casa tua, i bambini. Per bambini si può alleggerire, per bambini piccoli c'è scritto. C'è scritto che per bambini piccoli si può alleggerire, perché cambiano tutto il giorno le cose. Durante la settimana, sì. Ed è bene non mettere vestiti nuovi durante questa settimana. Anche c'è chi usa che vestiti puliti non mette. Cosa fa? Prima che entra la settimana, mette e toglie diversi indumenti che gli serviranno durante la settimana, così non sono freschi freschi, ok? Mazza, è proprio lutto. È serio, eh? Sì. Ci hanno fatto male, eh? Quel periodo ci hanno fatto proprio male. Inoltre non ci si fa il bagno in questa settimana di Tisha B'Av. Non fai niente. No, mikveh è un'altra cosa. Però sto dicendo fare il bagno per pulirsi. Ok, ovviamente quando parliamo di grande caldo e grande sudore che può capitare in questo periodo dell'anno nelle nostre terre mediterranee, allora si può alleggerire per togliere il sudore, fare una doccia veloce, non calda, il più possibile per togliere il sudore, ma non per piacere, no? Perché uno sta sotto la doccia, c'è anche piacere di stare sotto la doccia, questo bisogna evitare. Sì. Perché comunque uno gira nella società, non è che deve stare in una situazione che la gente si allontana da lui, però bisogna evitare questo aspetto qui del piacere e dell'ulteriore, diciamo, lavaggio che può essere eccessivo in quel periodo. Per ciò che riguarda la vigilia dello Shabbat, ci sono di nuovo diverse usanze, se è permesso o non permesso lavarsi bene con acqua calda, eccetera. Se capita una milà in questo periodo dei giorni di Tisha B'Av, allora si usa che ovviamente si fa la milà con la seudà e tutto, e solo il padre e la madre e il mohel e lo sandak, chi tiene il bambino durante la milà, solo loro si vestono in maniera festiva, come vestiti di abiti di Shabbat, diciamo così, ma gli altri no. Molto bene, allora per ricapitolare, il digiuno di Shiva Sarve Tammuz sarà questo martedì, se Dio vuole, e a Roma si usa che nei digiuni si mettono i tefilin anche a Minha, non solamente la mattina ma anche a Minha, e a Minha c'è anche Sefer nei giorni di digiuno, con la Haftarah, si legge la parasha relativa alla che si legge sempre nel digiuno, Vaichal Moshe, che è la parasha relativa al perdono del vitello d'oro, e si conclude anche con la Haftarah di Yeshayahu, Dirshu Hashem Bimatzo, cercate il Signore quando Lui vi sta vicino, che si legge in tutti i digiuni pubblici. A questo punto vi auguro una buona giornata, che Dio benedica tutto Am Israel, e con l'augurio che questi giorni, come c'è scritto nel profeta, questi giorni di lutto si trasformino in giorni di gioia e in giorni di festività, come sarà quando verrà Mashiach Bimera, ve'amenu, amen.